scena africana. La scorsa settimana abbiamo cominciato a conoscere l'ultimo lavoro per Solar Lodge, progetto di Fulvio Biondo, amico di questi spazi. Un saluto anche a Antonio Zoviet, alias Omicidio, in quel di Firenze. Dicevo, Solar Lodge di Fulvio Biondo, da pochissimo, a dopo tanti anni, dal 2002, ha stampato un nuovo lavoro dal nome Icebound Hearts, composto di due tracce, la lunghissima omonima e poi un'altra traccia dal nome La caduta del tempo. Questa sera ci ascoltiamo la parte finale della prima traccia, appunto Icebound Hearts, di 34 minuti. Ce ne ascoltiamo gli ultimi 10 minuti.